6B. Ascolta e rispondi. Quando devi svegliarti? Devo svegliarmi presto. Come devi vestirti? Devo vestirmi di nero. Con chi devi scusarti? Devo scusarmi con un mio collega. Perché devi cambiarti? Devo cambiarmi per andare in piscina. Che cosa dovete raccontarvi? Dobbiamo raccontarci molte cose. In cosa dovete specializzarvi? Dobbiamo specializzarci in bioingegneria. A chi dovete presentarvi? Dobbiamo presentarci al preside. Dove dovete fermarvi? Dobbiamo fermarci in piazza.